Genere trascurato in Italia, il racconto sta vivendo una nuova primavera, tanto che qui al Festival Letteratura di Mantova ci sono diversi incontri dedicati al tema. A dare l'esempio sono gli stranieri. Nomi di punta Nathan Englander, americano che vive a Gerusalemme, e l'israeliano Edgar Keret. Di Englander è stata appena pubblicata in Italia da Einaudi la raccolta Di cosa parliamo quando parliamo di Anna Frank. Due coppie si chiedono, se tornasse la Shoah, quale dei nostri amici ci nasconderebbe? Se Englander ha un titolo carveriano, Keret, Feltrinelli, riprende lo stile del maestro del racconto. Storie brevi, fulminanti, a volte grottesche. Ma la moda del racconto sta contagiando anche gli italiani. Uno degli esponenti del genere è Andrei Longo. Bellissima la sua raccolta 10, pubblicata da Adelphi, tutte storie ambientate a Napoli. Non è facile scrivere un buon racconto. Ci vuole sintesi, devi far apparire quello che c'è dietro la storia in pochi gesti, in pochi momenti, in pochi attimi, come una fotografia. Per chiudere con gli italiani, qui al Festival Minimum Fax propone i racconti di Paolo Cognetti, Sofia veste sempre di nero. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Mantova.